Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Sul mio nuovo giornalino il mio autoritratto. Giannino Stoppani, detto dai calunniatori Gian Burrasca. Io non sopporto questo soprannome di Gian Burrasca. Se prendete un dizionario e cercate alla lettera G, troverete anche la parola Gian Burrasca, che sta per bambino indisciplinato, monello. Chi lo sa se Luigi Bertelli, in arte Vamba, avrebbe mai immaginato che il nome del personaggio da lui creato nel 1907 e protagonista di una serie di avventure pubblicate sul giornalino della domenica sarebbe diventato un neologismo della lingua italiana. Sì, perché Giannino Stoppani, il piccolo esuberante bambino di 9 anni che si diverte a fare scherzi alle 3 sorelle più grandi e fa disperare i genitori, è il ritratto di ognuno di noi. Alzi la mano chi non è stato rimproverato dai genitori per aver fatto qualcosa di proibito. Siamo tutti Gian Burrasca, o meglio, lo siamo stati. Questo personaggio così vero, così genuino, capace di sopravvivere per più di un secolo alla nostra storia passando di generazione in generazione, deve il suo successo anche alla trasposizione televisiva dei racconti in uno sceneggiato a episodi andato in onda nel 1964. Ad interpretare il ruolo di un bambino monello e dispettoso che nasconde un cuore d'oro, una donna, una ragazzina di 19 anni la cui storia oggi I Magnifici Destini ha deciso di raccontare. È la storia di Rita Pavone. Cantante, e tutto il resto io lo chiamo optional. Il canto è la cosa che mi piace di più, fa parte della mia vita. Sognavo di diventare una cantante sin da bambina e sono stata felice di poter realizzare questo sogno che è diventato realtà. Rita Pavone è figlia di un caldo agosto torinese, uno di quei giorni in cui il sole infiamma l'asfalto della città e sembra sciogliere ogni cosa. Forse anche per questo la piccola Rita il fuoco se lo porta dentro. Non è solo per via del colore dei capelli e le lentiggini che le affibbiano il soprannome di Pel di Carota, ma per quel suo carattere esuberante che la rende simpatica al pubblico di ogni età. È giovanissima quando sale per la prima volta sul palco. Ha solo 14 anni. Ma ha una voce potente che piano piano la fa apprezzare nei locali torinesi. Non sono figlia d'arte e ho sempre amato la canzone. Da bambina i miei idoli erano Judy Garland in America e Delia Scala in Italia. E niente, mi piaceva diventare e fare qualcosa che mi portasse sul palcoscenico. Il padre è un semplice operaio della Fiat e in famiglia bisogna dar tutti una mano per tirare a fine mese. Per questo Rita viene mandata a lavorare giovanissima. E poi, si sa, con la musica non ci si compra da mangiare. Lavorando come camiciaia, una piccinina, i miei genitori mi misero al lavoro molto presto, io iniziai a fare la camiciaia, lavoravo con questo bancone che era più alto di me, con un panchettino di sopra, e credo di essere quella che ha inventato lo stepping, perché siccome il bancone era alto, le camicie erano quasi sempre lunghissime, io salivo, stiravo, scendevo, spostavo il panchetto, salivo, stiravo, scendevo, avevo inventato questo tipo di ginnastica. Un lavoro duro, dalle 5 del mattino fino alle 9 di sera, ma quando ti porti nel cuore un sogno, la fatica sembra sparire. Però volevo diventare una cantante, sentivo la radio, mi piaceva la musica, vedevo tutti questi film americani, commedie musicali, e dicevo: questo è quello che voglio fare. Come te non c'è nessuno, è per questo che t'amo, ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni. Quando meno te lo aspetti, il destino è lì, pronto a darti una mano. Il padre di Rita, Giovanni, è il fan numero uno della figlia, tanto da scontrarsi in più di una occasione con la moglie, che invece vuole per la piccola Rita un futuro più tranquillo, convenzionale. Una mattina, in casa della tranquilla famiglia torinese, arriva una raccomandata da Roma. Giovanni Pavone, in gran segreto, ha iscritto la figlia al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, organizzato da Teddy Reno, il Frank Sinatra italiano. Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi sapere perché. Quando nel 1956 Teddy Reno interpreta la parte di Gianni, il nipote dei fratelli Caponi, gli indimenticabili Totò e Peppino, è già una celebrità. Ha partecipato 2 volte a Sanremo e ha fondato la casa discografica CGD. La sua popolarità lo convince a farsi promotore di un festival che ha l'obiettivo di scoprire e lanciare nuovi talenti. Il Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Siamo ben lontani dai talent show che oggi rappresentano l'unica via per un cantante di raggiungere il successo. Eppure alla seconda edizione, quella del 1962, partecipa anche una piccola e giovanissima Rita Pavone, che oltre a vincere il festival, conquista anche il cuore di Teddy Reno. Beh, soprattutto la persona che più amo è mio marito. E niente, ho incontrato questa persona e credo di essermene innamorata subito. Mi sono innamorata soprattutto della positività di quest'uomo, che io continuo ad ammirare. E pertanto è stato sicuramente, diciamo che è stato il conduttore di questo treno, il manovratore di questo treno, perché lui ha portato sui binari giusti la mia carriera. Un treno che porta la 17enne Rita Pavone alla ribalta di tutti i rotocalchi dell'epoca. I giornalisti, però, più che esaltare le doti canore del nuovo talento torinese, sottolineano la differenza d'età che esiste tra i due, 21 anni, e non perdonano a Teddy Reno di essere già sposato civilmente con un'altra donna. Ma la tenace Rita non si lascia intimidire e grazie alla vittoria al Festival di Ariccia ottiene il suo primo contratto discografico. Il sogno è iniziato. È importante per me, tu lo sai. È importante perché non ho mai vissuto una storia d'amore tutta per me. Mia, non ho mai trovato un momento tutto per me. Mia, ma stasera verrà, lo so. Dopo aver vinto il Festival degli Sconosciuti di Ariccia a soli 17 anni, Rita Pavone ottiene il suo primo contratto discografico. Le potenzialità di questa ragazzina dai capelli rossi e così piena di grinta non passano inosservate, soprattutto a Teddy Reno, che al di là del rapporto sentimentale prova una profonda ammirazione per le doti canore di Rita e la sostiene artisticamente. Tra i tanti colleghi cantanti ce n'è uno che proprio in quell'anno sta facendo ballare tutta l'Italia con una canzone che ancora oggi siamo abituati a sentire all'inizio di ogni estate. Fucile d'occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù. Eh sì, stiamo parlando di Edoardo Vianello, il primo magnifico destino di oggi, Mr. Halligalli. Come lo chiamano tutti, colui che nel giro di pochi anni vende milioni di copie di dischi e viene acclamato come il Remida dell'estate, tanto da diventare un vero e proprio mito. Non è che ho avuto un momento proprio mitico della mia carriera, però è stata sempre una carriera costante dove le mie canzoni sono state prevalentemente le protagoniste. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Con Nico Fidenco e Jimmy Fontana, Edoardo Vianello riempie le calde estati degli anni 60 ed è considerato il sinonimo del successo, anche se, come lui stesso sottolinea, il merito del successo è sempre dovuto alle canzoni più che alle sue interpretazioni. Io ai primi tempi mi tenevo quasi in disparte, cioè ci tenevo, come ci tengo ancora oggi, che siano le canzoni avanti a me, perché le canzoni rimangono. E quindi per me è motivo di orgoglio sapere che la gente dopo 50 anni ancora le ricorda, le ama, le balla, le fa ascoltare, perché anche i bambini le conoscono, evidentemente a casa le fanno ancora ascoltare. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fisi, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il fisi, sarà per perché io dondolo. Saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Avere la possibilità di cantare una canzone di Edoardo Vianello è un formidabile trampolino di lancio verso una splendente carriera. Lo sa bene Teddy Reno, che consiglia a Vianello il nome giusto per interpretare La partita di pallone, una canzone che può essere cantata solo da una donna. Ma la scelta di Babone è stata casuale. Io ho assistito alla finale del Festival degli Sconosciuti e quando sentii questa ragazzina scatenata e avendo nel cassetto questa canzone, pensai di proporgliela, anche perché nasceva in quel momento, non aveva repertorio, e quindi proposi alla casa discografica, che poi era la stessa mia, questa canzone. Lei la incise subito, è stato il suo primo successo, ci siamo portati fortuna. Chissà, chissà, oh, se davvero vai a vedere la tua squadra, oh, se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Sono 50 anni che Rita Pavone ha portato al successo questa canzone, eppure ancora oggi siamo abituati a canticchiarla ogni domenica di campionato. E proprio grazie alla partita di pallone, Rita diventa una stella. Nei 2 anni che seguono arrivano altri successi e Rita comincia ad abituarsi alla cima delle classifiche. Sci dal cucuzzolo della montagna, un cielo tinto col blu, con in testa un bassa montagna, scenderemo sempre più in giù. Come te non c'è nessuno, il ballo del mattone, datemi un martello. Nel biennio 1963-64 escono uno dopo l'altro i principali successi di Rita Pavone. È un periodo estremamente positivo per la cantante torinese, che oltre a ricevere la gratificazione del pubblico, vive una grande storia d'amore accanto al suo pigmalione Teddy Reno. La coppia riempie le prime pagine dei rotocalchi dell'epoca, ma Rita riesce a imporsi al pubblico soprattutto per le sue eccezionali qualità canore. Nell'agosto del 1964 Rita Pavone inizia una nuova avventura. L'aspetta infatti la sfida con la televisione, nel ruolo di cantante ma anche di attrice dello sceneggiato Il giornalino di Gian Burrasca. L'autrice del programma è una giovane regista all'esordio televisivo, una donna dal carattere forte e deciso che non può non andare d'accordo con Rita Pavone. Stiamo parlando di Lina Wertmüller. È proprio lei il secondo magnifico destino di oggi. Quando con il primo film, che era Basilischi, vinsi un sacco di premi, ebbe la sensazione di essere subito stata messa dai critici nello scaffale dei registi molto impegnati. E allora, per levargli questa idea dalla testa, fece subito Gian Burrasca, che fu una bellissima esperienza musical e televisione di qualità. Il film d'esordio di Lina Wertmüller, I Basilischi, è una commedia grottesca che racconta le vicissitudini di 3 giovani del sud che, pur avendo l'occasione di lasciare il paese d'origine per cercare fortuna a Roma, alla fine rinunciano, sprofondando nell'apatia e nell'autocommiserazione. La Rai punta molto sulla produzione di Gian Burrasca e ha deciso di inserire nel cast personaggi di prim'ordine. Arnoldo Foà, Ivo Garrani, Paolo Ferrari, Bice Valori sono solo alcuni dei nomi che partecipano alla serie televisiva. Grandi attori di teatro, grandissimi collaboratori, e quindi così riuscì a far innervosire i critici. Quelli mi pensavano un regista impegnato e mi videro un po' più portata verso un musical dall'apparenza più leggero, ma non lo era per niente. Ecco, giornalino, una data fatidica. Si sono riaperte le scuole. Ricomincia la penosa tragedia di noi bambini. La scuola. Ma che barba queste scuole! Eh sì, Gian Burrasca, il bambino monello che non fa altro che fare scherzi e combinare guai. Un personaggio divertente, ma che porta con sé inevitabili critiche. Non dimentichiamo che lo sceneggiato va in onda all'inizio degli anni 60, alla televisione di Stato, la Rai. Quella Rai che, per volere delle istituzioni, deve essere uno strumento di intrattenimento ma anche e soprattutto di insegnamento. Logico e ovvio che una parte del pubblico si senta infastidita da un personaggio come Gian Burrasca, che non insegna certo la buona educazione e il rispetto per il prossimo. La questione finisce addirittura in Parlamento e il dibattito si fa acceso. Ma cos'è questo riasso? A smorzare i termini della discussione ci pensa però il successo incredibile ottenuto dallo sceneggiato. Rita Pavone, con quella sua aria sbarazzina, entra nei cuori delle famiglie italiane e si accorge della sua popolarità quando rimane vittima di un attacco di appendicite che la costringe a 10 giorni di riposo forzato. Al suo ritorno sul set trova un sacco con più di 13.000 cartoline di pronta guarigione provenienti da ogni parte d'Italia. La piccola Rita dai capelli rossi sta diventando una vera star e sulla scia del successo televisivo interpreta anche alcuni film del genere musicarelli, quei film cioè interpretati da cantanti famosi che alternano la recitazione alle canzoni. Oh, oh, professore, mi scusi tanto. Oh, ci picchia, non era per lei, era per la professoressa di matematica. Davvero, sa, io lei non avrei mai fatto, perché lei mi è molto, ma molto simpatico. Ah? Tenga la sua simpatia e stia al suo posto. Signorina Sant'Angelo. Mi tengo la mia simpatia, tanto lei non se la merita. Ma come si permette? Si comporti educatamente, mocciosa. Mocciosa a me? Ma chi ti credi di essere? E pensare che io... Ma da questo momento peggio per te. Mi vendicherò, ti tormenterò come una zanzara. Sotto la sapiente regia di Lina Wertmüller, Rita Pavone interpreta 2 film in compagnia di Giancarlo Giannini, raggiungendo incassi miliardari. La Wertmüller vuole dare fiducia a Rita Pavone, che è un'ottima cantante ma che inizialmente non convince come attrice. Garinei e Giovannini dicono di lei che parla come un registratore alla rovescia, sottolineando le difficoltà nell'addizione e il forte accento torinese. Ma Rita è una ragazza che sa dove vuole arrivare e si mette a studiare con impegno, riuscendo a convincere anche i critici più dubbiosi. La mia mano nelle tue mani, i tuoi occhi che guardano i miei, sorridere senza ragione, sentirsi felici di niente. La collaborazione con Lina Wertmüller prosegue anche negli anni successivi, alimentata da una stima reciproca che cresce di giorno in giorno durante le lavorazioni di Gian Burrasca. La canzone Questo nostro amore è scritta proprio da Lina Wertmüller con Luis Bacalov per la partecipazione di Rita Pavone al Cantagiro. La piccola ragazza torinese si sta affermando come una delle cantanti più famose degli anni 60. Magnifici destini. Lo sapevate che a comporre la colonna sonora del giornalino di Gian Burrasca, interpretato dalla protagonista di questa puntata, Rita Pavone, viene chiamato uno dei musicisti più famosi del cinema italiano? Lui ha già lavorato con tutti i principali registi italiani e la RAI lo vuole proprio per dare maggiore spessore all'intera produzione. Il suo nome è Nino Rota, l'autore tra molte altre della colonna sonora del Padrino. È lui, il terzo magnifico destino di oggi. Un uomo piccolo di statura, con 2 occhi vivacissimi, una specie di folletto del bosco, una specie di personaggio di una fiaba, pieno di vitalità, pieno di intelligenza che si vedevano in questi occhi. La descrizione che fa Riccardo Muti di Nino Rota ci fa capire che non occorre avere un aspetto imponente atletico per esprimere il genio. E Nino Rota si può considerare con tranquillità un compositore di tale bravura da poterlo accostare ai grandi compositori di musica classica del passato. Nino Rota scrive le colonne sonore per Visconti, Monicelli, Comencini, De Filippo e molti altri famosi registi italiani. Ma il sodalizio più saldo, quello che porta i risultati migliori, è senza dubbio quello avuto con Federico Fellini, per il quale Nino Rota scrive la colonna sonora di tutti i suoi film e con il quale, come lui stesso racconta, non è stato facile lavorare. Lui mi dà qualche indicazione molto precisa, ma anche molto contraddittoria. Magari dice fai un motivo allegro ma che sia triste, un motivo vecchiotto ma che sia nuovo, un motivo spensierato ma patetico. Eravamo stato tutta la giornata a cercare, cincischiare, non usciva niente. Finalmente, al momento di andar via, suono un motivo. Federico si ferma. Dice, guarda, questo va bene, con questo ci facciamo tutto il film. Durante la lavorazione di Gian Burrasca, Nino Rota si ritrova a lavorare spalla a spalla con Rita Pavone e ne rimane piacevolmente colpito. Innanzitutto per la splendida voce, che si nasconde in un fisico minuto, ma soprattutto per l'entusiasmo e la passione con cui la ragazza affronta il difficile lavoro del set. Rota è già famoso e questa sua incursione nella televisione è una specie di gioco che il maestro si è voluto concedere. Gian Burrasca è un monello patentato. Non sarà difficile trovare un motivetto allegro che lo rappresenti. Le note della canzone principale dello sceneggiato iniziano ad accostarsi le une alle altre sul pentagramma e quando Rita Pavone interpreta la canzone per la prima volta, Nino Rota è soddisfatto. La pappa col pomodoro, il tipico piatto povero della cucina toscana, è pronto per essere sdoganato sulle tavole di tutta Italia. Abbiamo raccontato come il successo clamoroso del giornalino di Gian Burrasca trasformi Rita Pavone in una stella della musica italiana. Ma il meglio deve ancora venire. Il magnifico destino di Rita lo si può vedere nei suoi occhi eccitati quando appena diciottenne vola attraverso l'oceano e va a conquistare l'America. È l'avverarsi di un sogno. Io mi sono trovata a lavorare su dei palcoscenici con Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Tom Jones, Barbara Streisand, Joan Sutherland. Ho lavorato con i più grandi, ho fatto dei duetti con Polanca in Germania, sono delle cose importanti, ho fatto delle cose che ritengo, soprattutto poi viste con l'ottica di oggi. Ma vi rendete conto? L'America, Ed Sullivan. L'Ed Sullivan Show è uno dei programmi più famosi e longevi della televisione americana. A lui si sono ispirati David Letterman e Jay Leno, creando quel genere chiamato talk show. Rita Pavone si trova lì, nello stesso studio dove hanno cantato Elvis Presley, Louis Armstrong, tutti i più grandi cantanti del mondo. Che cosa può volere Ed Sullivan da una che fino a pochi anni prima stirava le camicie in una bottega di Torino? Eppure Rita Pavone viene invitata per 6 volte nel periodo che va dal 1964 al 1967. È lo stesso Ed Sullivan a richiedere la sua presenza, essendo venuto a conoscenza dell'incredibile successo che sta riscuotendo in Italia quella piccola ragazza dai capelli rossi. Noi lavoravamo dove non c'era la globalità e la contemporaneità, cioè che ti vedono oggi, ti vedono tutto il mondo. Noi avevamo delle piccole televisioni e arrivava a distanza di tempo, arrivavano le tue notizie. E allora, insomma, apparire 6 volte nelle Sullivan Show in America non era una cosa di tutti i giorni. Cioè, io credo di aver fatto delle belle cose. Rita è incredula e la sintesi di tutto quello che le sta accadendo la si può vedere in una foto che la ritrae con Ed Sullivan nella serata in cui divide il palco con Duke Ellington ed Ella Fitzgerald. I suoi occhi brillano di felicità. Le sembra tutto impossibile, ma è la realtà quella che sta vivendo. Rita si rende conto che in quel momento sta rappresentando una nazione intera che con fatica si è rialzata da una guerra persa e con tenacia sta ricostruendo da quelle macerie un nuovo capitolo della sua storia. È felice e spaesata, la piccola Rita. Essere lì con i grandi della musica americana significa avere raggiunto il tetto del mondo. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata. Per te pace no, no, non c'è. Te incontri bellissimi, lavorare insieme con gente come Sullivan, conoscere dei personaggi come Tom Jones, come la Stresa, incontrare dei grandi artisti come Chet Atkins, che è stato il mio produttore. Sono dei personaggi che gli addetti ai lavori conoscono molto bene. E Floyd Kramer, lavorare con dei grandissimi nomi. I Beach Boys, sono delle cose che hanno significato creare la propria strada, creare la propria dimensione artistica. La carriera di Rita Pavone continua senza sosta fino al 1968, con successi sia in Italia sia all'estero, collaborazioni importanti, concerti, film. La vita di Rita sembra un sogno, ma tutto a un tratto questa magia sembra interrompersi. In quell'anno, infatti, dopo 5 anni di successi, il matrimonio con il suo pigmalione Teddy Reno sembra incrinare la sua folgorante carriera. Il pubblico, infatti, non vuole accettare che una giovane, troppo giovane ragazza, si leghi a un uomo che ha 21 anni più di lei, oltretutto già sposato e con un figlio. La stampa scandalistica si accanisce sulla coppia e lentamente provoca un isolamento che allontana Rita dagli schermi della televisione. L'ultimo successo discografico di questo periodo è la sua interpretazione del successo di Gorny Kramer, Pippo non lo sa. Il piccolo Gian Burrasca è costretto a crescere e a diventare un adulto. L'inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa. L'Italia sta cambiando e con essa cambiano anche i gusti musicali. Il beat sta lasciando il posto al rock psichedelico e il 1968 si porta dietro una serie di sconvolgimenti sociali che esplodono con la contestazione giovanile. Non è più il tempo delle canzoncine simbolo di un'Italia provinciale e tradizionale. Con Nada e con Caterina Caselli, anche nel mondo della canzone, ci si accorge che qualcosa sta cambiando e sembrano ormai dimenticati i tempi della pappa col pomodoro. Rita Pavone viene lentamente rimpiazzata nei gusti del pubblico italiano e non riesce più a trovare quei clamorosi successi che hanno riempito le classifiche di pochi anni prima. Tuttavia la sua carriera prosegue all'estero, dove invece Rita incontra ancora quella parte di pubblico italiano più legato alle tradizioni di un paese che ha dovuto abbandonare per necessità, ma che l'Italia se la porta nel cuore. I magnifici destini. I magnifici destini di oggi vi sta raccontando la splendida carriera di Rita Pavone, nota a tutti per la sua interpretazione televisiva del personaggio di Gian Burrasca. Negli anni 70, Rita Pavone continua la sua carriera di cantante alternando partecipazioni sanremesi abbastanza anonime a trionfali serate all'Olimpiadi Parigi. Tra gli autori che collaborano con lei c'è un giovane cantautore romano, Claudio Baglioni. Insieme realizzano il pezzo La Suggestione, che nella sua versione francese, Bonjour la France, ottiene un successo inaspettato, scalando le classifiche d'oltralpe. Bonjour la France. Je suis étrangère. Mais toi tu es sans frontières. Tu reçois tout ce qui est sans trouver leur terre ou qui sont misères. Tu reçois tout ce ceux qui s'aiment et qui ont de la peine comme tes enfants. Ancora una volta è Teddy Reno a intuire che la canzone è quella giusta per Rita Pavone e in qualità di produttore organizza alla perfezione il lancio del disco, che vende più di 800.000 copie. Nei due decenni successivi, il mercato discografico estero è quello che dà le maggiori soddisfazioni alla cantante torinese, che con concerti ospitate diventa uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Ma c'è anche un nuovo amore per Rita. No, state tranquilli. Teddy Reno, il grande amore della sua vita, è sempre lì, accanto a lei. Ma la voglia di buttarsi in una nuova sfida artistica avvicina Rita Pavone al teatro. Credo di aver dimostrato di aver fatto un po' tutto. Ho fatto l'attrice anche di teatro serio. Ho lavorato insieme a degli artisti come Pino Miccolo, Renzo Montagnani, Franco Branciaroli nella dodicesima notte di Shakespeare. Io non avrei mai pensato un giorno di calcare le tavole di un palcoscenico shakespeariano a Verona, a Teatro Romano. Ho fatto La Strada, ho fatto personaggi anche difficili, drammatici. Carlo Da Porto, Piero Mazzarella sono alcuni dei grandi attori con cui Rita Pavone divide il palcoscenico. Con Macario interpreta Due sul pianerottolo, con cui riscuote un notevole successo e si afferma anche come attrice. E anche se strillavo per la pappa, la mia voce era quella. Una sfrenata singer pop che canta come Rolling Stones. Se mi lasciam fare, voglio diventare l'unica splendida superstar. Ci sono due attori comici che in realtà non siamo abituati a veder vestire i panni dei personaggi shakespeariani, ma che a Rita Pavone devono il merito di averli incoraggiati all'inizio della loro carriera in un lavoro dal titolo Gli Amici. Sono Andrea Brambilla e Nino Formicola, ma li conosciamo con il loro nome d'arte, Zuzzurro e Gaspare. Le memorie del commissario Zuzzurro. Gaspare. Vieni su che non c'è nessuno e puoi scrivere. Sherlock Holmes aveva Watson che gli scriveva il diario. Io Gaspare. Gaspare, scrivi. Capitolo ottavo. Come capitolo ottavo? Sarà il capitolo prima, devo ancora iniziare il capitolo ottavo. I piccoli ottavo. Alberghi hanno la stanza 402, 404, 406 e noi abbiamo il capitolo ottavo. Scrivi e siediti. Oggi Rita Pavone vive in Svizzera. È ormai una donna matura che ha potuto cimentarsi come cantante, attrice, produttrice, riscuotendo sempre successi e soddisfazione. Ha anche scritto un libro intitolato Nel mio piccolo, in cui ha raccontato molti aneddoti della sua vita artistica e ha ancora una volta dimostrato l'amore e la passione riguardo al suo lavoro. Beh, questo è un lavoro che non mi ha mai dato delusione. Il lavoro in se stesso è una delle cose belle. È bello alzarsi il mattino e sapere che fai un mestiere che ami, dove non ti annoi, dove conosci persone che ti insegneranno sicuramente qualcosa di più, ed è sempre una sorpresa. Da quando Gian Burrasca si faceva rincorrere dalle sorelle esasperate dai suoi scherzi, sono passati molti anni. Eppure il personaggio creato da Bamba nel 1907 è entrato nel cuore di tutti, grandi e piccini, diventando il simbolo di una televisione pulita, semplice, per la famiglia che ha bisogno di distrarsi dalla quotidianità e trovare un momento di svago e spensieratezza. Le marachelle di Giannino Stoppani le abbiamo fatte tutti. E anche per questo il personaggio interpretato da Rita Pavone è entrato nel cuore di ognuno di noi, perché in fondo, siamo tutti Gian Burrasca. Siamo di Gian Burrasca.